Non so se sia semplicemente una mia fissazione o anche voi avete sentito aleggiare un brutto sentore di razzismo latente nei commenti dei resoconti relativi all'episodio di giovedì scorso in via Domodossola a Roma, quando un gruppo di giovanotti, presumibilmente ebrei, ha aggredito la locale sede di un movimento parafascista, i celebri Nazi Skin, menando qualche sganassone e asportando, se ho capito bene, una bandiera. Non che nessuno li abbia criticati, sia ben chiaro, o semplicemente definiti con i termini di cui ci si serve comunemente per marcare il proprio dissenso da episodi del genere. Non so, nessuno che li abbia definiti autonomi, per esempio. Gli unici che si sono azzardati a dire che certe cose in uno Stato democratico non si fanno, oltre al capo della polizia che parlava per dovere d'ufficio, sono stati gli alti esponenti della comunità ebraica. Tutti gli altri hanno compreso, hanno spiegato, hanno storicizzato, hanno spiegato e hanno distinto, rivelando in questo insolito spirito di comprensione, così estraneo all'ideologia corrente per cui tutto si perdona tranne il rifiuto di subire le prevaricazioni, rivelando di essere dotati di code di paglia lunghe parecchi chilometri. Ma anche questo è ovvio in un paese che pur di affermare la sua supposta estraneità ai razzismi di ogni tipo, ha rimosso di un colpo solo tutta la storia del fascismo, tutta la sua storia coloniale, un paese la cui burocrazia si autoassolve a priori dai comportamenti discriminatori verso gli immigrati della pelle variamente scura, inventando la geniale categoria di extracomunitario, e in cui non puoi aprire un campo di prima accoglienza senza suscitare almeno 14 comitati di raccolta di firme di protesta. No, il sentore di razzismo a cui alludeva era forse un filino più sottile. Si coglieva nello stupore con cui chi riferiva dell'episodio si metteva di fronte a una notizia, nella leggerissima sovraenfasi con cui dava conto del fatto che una volta per apprendere fossero dei nazisti, a darle fossero degli ebrei, come se per questi ultimi prenderle fosse in qualche modo più naturale. Non era proprio un atteggiamento giornalistico del tipo uomo che morde cane, però ci si andava abbastanza vicino. Che volete che vi dica? Io ho avuto l'impressione che per molti commentatori, anche insospettabili, scoprire che gli ebrei, quelli della diaspora, non quelli dello Stato di Israele, che tutti sanno che loro menano, però è un altro discorso, scoprire che gli ebrei possono aggredire i loro nemici è un fatto perlomeno strano che in qualche modo deve essere normalizzato. Il Corriere della Sera sabato ci ha provato a normalizzarlo, intitolando a tutta pagina "Io ebreo violento per disperazione", come se tra tutti coloro che adibiscono la violenza alla soluzione dei propri problemi pubblici e privati non fossero tanti, tantissimi, probabilmente la maggioranza assoluta, quelli che lo fanno per disperazione. Io non sono esperto di cose ebraiche, va sicuro. Non so se quella cultura, per quel poco, quel tanto in cui differisce dalla nostra, e credo che non sia poi molto, non so se quella cultura esibisca un atteggiamento di particolare disapprovazione della violenza. Nella Bibbia non si cantano le lodi dei profeti disarmati, ma la Bibbia è un documento di tanti secoli fa. Suppongo che le loro norme correnti raccomandino, come le nostre, di usare la violenza solo quando è necessario, lasciando la determinazione di quel quando è necessario al consenso socio-istituzionale, che poi può variare molto secondo i tempi e le circostanze. E suppongo che i singoli, nel loro foro interno, abbiano, proprio come noi, una certa predisposizione alla sopraffazione, anche violenta, quando si sentono forti, e una notevole spinta alla mitezza quando si sentono deboli, perché questo è un patrimonio comune della nostra umanità, è un patrimonio che probabilmente trascende e unifica le distinzioni culturali e sistemi ideologici, perché è molto più antico e introiettato da molto più tempo. Persino i Nazi Skin, quando si sentono deboli, almeno di fronte all'opinione pubblica, si fanno piccoli e si dichiarano miti come colombe, come quello che sul Corriere della Sera di lunedì assicurava che tra le finalità del suo movimento c'è soprattutto quella di portare i pacchi di Natale alle famiglie dei militanti, soprattutto se in disagiata condizione. È un ovvio bugiardo costui, naturalmente, ma non importa. In realtà tutti, riferendo l'episodio di via Domodossola, si sono preoccupati molto di non sembrare razzisti, hanno fatto bene naturalmente, ma per giudicare la violenza in una situazione come quella italiana non essere razzisti non basta, bisogna sforzarsi di non essere ipocriti. Your friends say you have to wise up above me. I'm all you got. Outlaw. Yeah, hands are shaking and beneath.